Buongiorno Fabrizio. Guardi. Aspetta Fabrizio. Passare tu io volentieri, però non direi mai passare io. primo stadio d'ingresso, se no poi dopo ho cambiato quello, vediamo. Facciamo entrare il break, avanti Brecco. Sì, già fatto, ricevo Santiago 7, radio 4, ti ricevo. Sì, allora potete qui. Pensando come lo ritroverate con la batteria nel dorsale. Perfetto, buonissimo allora. Ti ringrazio, buon proseguimento, ciao. Ciao Gioffa, arrivi magnificamente bene qua, Santiago 7, radio 4, 50 euro. Perché è un po' bassino, ma comunque è abbastanza comprensibile. Vai Fabri. Beh, ciao Gioffa, anche qua più o meno sei come Claudio, forse metto un punto in meno di Claudio, ma più o meno sei così anche qua, niente, stai arrivando bene, bene, comprensibile, senza problemi. Anche io la radio forse anche di meno non ti darei, perché sono più avaro, però già vai bene. Ciao ciao, riprendi qua. Fabri, non lo so, vediamo stasera se sei a casa, ci sentiamo, perché pesa un bel cazzo, un bel pesante, no, un bel palomino, mi pesa più del mio, sono un trasformatore gigante, ma tu hai il palo già sono tutto da lui, adesso io ci provo, ho un po' quello di te, l'ho tolta, come sapevo lo stesso, quindi a piattarlo non credo ci voglia così tanto. Che devo staccare la piastra perché c'è il connettore delle valvole col cavo col cavo corto e quindi non gira bene, poi l'ho intrappata, quindi la disaldo e poi la giro, non c'è problema. Avanti Gianni. Bene, dai, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E me l'hai trovato Claudio qui. Non è stato un bel pezzi, 5 euro speso. 5 euro, un condensatore elettrolitico da 1000 microfarad e una resistenza. Ho già comprato i set ieri mattina agli amici. Cioè ieri sera veramente, ieri mattina. Adesso stasera vedo di mettermi un fallo di piattaggio. Mi metto, devo attaccarlo. Già tutti, non c'è problema. Eppure proviamo, vediamo un po' se... Ho registrato un break e a te ancora Gianni lo fai passare tu, dimmi se hai risolto il problema dell'altra radio invece. Sì, io ho telefonato a Massimiliano, me lo controllo la prossima settimana. Mi ha detto che sicuramente è quello che mi hai detto, sicuramente è quello. Cavagava, adesso facciamo entrare il break con la buonasera dalla Doppio Room in compagnia di Claudio Spalviero e di Fabrizio Occhiriga, che saluto anch'io. Avanti di nuovo. Basta, salutiamo tutti quanti. Ciao Gianni, ciao Claudio e ciao Fabrizio. Ci siamo sentiti prima però non ho avuto modo di, non ho fatto qua a salutarti. No, buonasera per salutarvi, ho finalmente riacceso la radio da stamattina, era quasi 10 giorni ferma, ne sto approfittando per, sono entrato solo per salutarvi, dai, sto facendo una cosa, vi ascolto con piacere, sono qui in ascolto, saluto a tutti, riprendi Claudio. Ciao Sonato, buonasera. Ho sentito un po' perché c'è una modulazione un po' strana, non è la modulazione che avevamo regolato assieme. Vabbè che adesso il tuo manager Massimiliano, quindi va bene così. Comunque 5 non te l'ho ben ascoltato, buonasera. Avanti Fabrizio. Ciao Salvatore, ben sentito. Sì, ci ho sentiti poco fa, è così. Ciao Gianni, mi hai sentito anche a te. Ascolta, qualche cosa ti è successo anche alla radio già? Cosa mi è successo? Che stavamo modulando, con Claudio sono andato a prendere il bambino a scuola, quando sono ritornato riacceso e non c'era più QRM. altro che strano, ho guardato lo squeeze, poi mi hanno detto che mi sentivano l'importante, ma io non sentivo nessuno, mi sentivano l'importante, i watt escono giusti, il PTT si accende la spia quando schiaccio il microfono, tutto quanto, le lancette si muovono, arriva a 10 cose di watt, però non si sente nulla. Ho provato anche a inserire le cuffie, con le cuffie sentivo un po' di QRM, all'inizio poi non sentiva più nulla, e si sente una cosa del genere. Ho capito, ho capito, l'avevo compreso. Chissà che non sia niente di grave. Io va bene, deve essere partito del ricevitore o Fabri, quindi ci sono sulla parte ricevente, deve essere qualche cazzata. Io speriamo, anche io la prima cosa ho pensato una cosa del genere, dopo quando mi ha tenuto esattamente il cevano mi sono reso conto che le cose erano più importanti, si è ferma aspettando componenti, quindi già lo sai che purtroppo molte volte qua, anche sembra semplice, vediamo magari solo quello, ma quello parte in genere quando prende una sberla, capito? Di che cosa? Di modulazione, magari è successo quando ho cambiato la batteria, perché l'ho misurata e quella era più di 9, era 9,9, una cosa del genere, Claudio, ti ricordi che abbiamo cambiato la batteria? Sì, ma non fa niente al modulatore, già, e vabbè, fabbricato, è il tuo, è una HF digitale, quello baracchino anche di buona stazza, però insomma i danni sono inferiori sicuramente. No, ma lì già non ti preoccupare, sicuramente, guarda, al 100% è partito il diorogene della parte ricevente, quindi quella che comanda il ricevitore, niente di particolare, perché il segnale c'è, il tuo, però non ricevi, quindi credo che ci siano problemi. Sì, Fabri, era una giornata un po' particolare, c'era molte scariche elettrostatiche, però non si pensava di andarsi a colpire proprio questi baracchini. Ho comunque lasciato il baracchino tutta la notte, eccetera, pure l'ho riacceso e funzionava perfettamente. Gli HF le stacco sempre, HF li isolo, lascio preferibilmente un baracchino, ci abbia le luci, se parte un baracchino è sempre meglio che partono di queste radio, insomma. No, ma già non ti preoccupare, se non ci vediamo tanto così adesso lo controlla, sicuramente niente di grave, dai. Stai tranquillo, finale non sono, altrimenti non saresti uscito, ma quello importante non ti avrebbe dato i fatti sicuramente. Salvatore, in QRX, un QRX Salvatore, siamo qua quando ti piace, avanti Fabri. Ho capito. E speriamo bene, che io sono rimasto scottato, certo, ma sono abbastanza incavolato per quello che mi è successo, perché è una cosa che potevi evitare, però purtroppo io sono uscito il dopo pranzo, che era bel tempo, normale, certo, e poi ho iniziato questa cosa che era una cosa impressionante, non ho dimenticato anche che ne avevo una accesa, se no magari avrei chiamato mia moglie e ho detto spegnila, poi non è successo niente, ma spento proprio come era accesa, mi è arrivata qualcosa, probabilmente anche a te ti è arrivata una scarica e ti ha fatto danno, capito? Quindi va bene, già si metterà a posto. Ma volevo dire un'altra cosa, dicevo che e poi niente, se mi voleva passare quel baracchino, se lo mettevo lì e glielo controllavo, se era possibile metterlo a posto. Fabri, ci sentiamo magari più tardi, perché sinceramente sono molto, anche oggi una mattinata, guarda, non ti... Sto rientrando, non sono entrato alle due, sposato che stavessi nel primo sigaretto e non sono entrato a casa. Proprio per non uscire stasera, pensavo di uscire a fare la spesa a mia moglie, che ci mette più uscita stamattina, quindi sono inchiodato a casa. Adesso fra un po' mi traio un paio d'ore, poi vediamo più tardi. Veniva un bel pesante, Fabri, un bel pesante, che si viene male anche a prenderlo, no? E tu papà, lo vuoi chiudere, se non mi guardano i bici in testa. È un casino. Se torni di 2 minuti, c'è tutto pronto, devi portare solo l'aspirapolvere e basta. Perché non era rotto. Lo comprai ieri sera, mi sono dimenticato. Quando sono arrivato a casa mi sono ricordato. 8.000. Solo l'aspirapolvere. Ma proprio così per fare un lavoro fatto bene, se no già non ci vuole perché la piazza è completamente staccata, capito? La piazza portavalvole è completamente staccata, quindi non sento lui, viene bene lo stesso. Niente, se avevi due minuti, proprio due minuti, non facevi più, se tu non ci dai pazienza io mi salvo e poi vediamo come va, tanto non ce la farò la prova, capito, per vedere se c'è qualche cos'altro o se era solo quel condensatore con quella resistenza. Io spegno il baracchino, vai. Mio Dio, la buon'anima. Ascolta, guarda che come te l'ho dato te lo posso riprendere, fai la bravo, hai capito quello bravo? Ah, io ho spedito aspetta, allora, riprendi tu. Buonasera Tino, ben entrato, un piacere risentirti, infante. Adesso diciamo le ha riparato tu e si è rotta a me. Molta sfiga Tino, hai capito? Vabbè, c'è qui, non altri, quindi non c'è problema. Sì, già, non c'è problema, già non te lo tutto. Tieni, bacio quello ripetitore del retro perché è un bel forte questo. Oh, ci sono, Ma stiamo cambiando, l'ho preso qua. Ho messo la 25. Allora. Va bene. Tieni, ti bacio con la potenza che ma è allucinante che sia radio. Basso, più basso di me. Più basso di te, e tu non sei basso. Vabbè, signore, io sono entrato a salutarvi. Perché sto entrando da Manegussi e Bernardi, ancora non ho pappato. Vai a pappare, Pino. Oddì, se c'hai 5 minuti che mi sono ricordato una cosa, al telefono di casa, al telefonino, ci sentiamo stasera, se vuoi una cosa. Ehi, ti chiamo più tardi, ti devo ricordare. No, adesso sono andati. Cioè, sto qua nella poltrona, ma mi sono abituato, ma bacio un gioco mi dron, come te li ringa. Bravo, che bravo. Ah sì, ha ragione. Aspetta. Vado a scaricare. A scaricare un'acqua, a mangiare un mosso, poi già ci sentiamo, va? E a dire, ci sentiamo dopo, ma ce l'ho acceso, quindi vedo un po' se tutto funziona bene. Fabri, avanti il pattino muscolo. Per me. Ok. Allora, mi lasciava andato 2 secondi a vedere una cosa, quindi non mi stavo nemmeno seguendo, qualcosa di strano è successo, ho sentito il tuttino, però poi non ho sentito altro. Ma chi sei? Fabrizio di Chiriga? Eia. Ciao Fabrizio, ciao. Ciao, mi hai sentito? Va bene, a dopo, ciao. Ciao di noi, ci sentiamo dopo. Ci aggiorniamo al telefono, vai. Avanti, ci andiamo più tutti. Ciao Tino, buona carica. Fabri, allora sei fermo tu con quello là? Sì, sto aspettando due fette che li ho ordinati, che qui non ti trovi giustamente, li ho ordinati, adesso sperando che arrivi prima possibile. Mi hanno spediti venerdì, quindi magari martedì, mercoledì li dovrei avere qua, così. Perché poi tu ti segui tutto, sino a parte a posto, sono arrivato lì, adesso prima non era prima, adesso arriva il segnale sino lì mi arriva e da lì si blocca e ci sono questi cavoli fette che la catena più, quello più, come li può chiamare, più delicati, insomma, nel telefono. Un attimo. Penso a risolvere il problema. Magari anche con pochi soldi, se possibile. Tutta scheda ho già, quindi quando parte qualcosa devi seguire bene, non è come questo, non che puoi pugnare, fare qualche punticello, funzionano sempre, gli analogici maledetti. Provato, accendelo adesso, detto, magari si riposate adesso che accende. Fa un rumore, una cosa del genere. Così di solito parte questa biologene, che è quello della parte ricevente, non credo che abbia fatto 10 anni, ma quello che dico io, avrei dato un segno prima, niente, proprio nulla, come me l'ho spento tranquillamente, ho fatto un corretti tranquillo, vado a riaccenderlo e non si sentiva più nulla. Cosa c'è che dici? Come ti è capitato io un giorno con la macchina? Perfetta, durante la macchina tengo molto, insomma, ci sto molto attento. Sono andato, non mi ricordo dove ero, ma al corso, forse via Roma, parcheggiato, ci sono fatto delle commissioni a piedi, torno, la macchina non partiva più, batteria caput, morta. E non ti ho lasciato una cosa accesa? Ruba, niente, è partito un elemento, mentre l'ho usato direttamente, è andato in corto un elemento, fino a quando era in moto, non andava bene mettere le trotte, poi quando lo spegni chiaramente manca un elemento in corto, non ti fa partire la macchina, non fa niente. E quindi ho telefonato a lui, è venuto, ho recato l'occhino, con la batteria nuova, cioè con un'altra batteria, l'ho messa in moto, ci hanno andato da lui, ha controllato col densimetro, con un amperometro, morta, caput, niente, capito? Per dirti, non mi ha avvisato, l'avevo appena lavata, sono andato a piazzare scegli, ho preso il caffè, sono sceso a Fredanieda, l'ho lavata, spenta, accesa, 10 volte, niente. Sono andato via a Roma, ho parcheggiato e ho aperto da lì. È una cosa allucinante. Invece oggi il mio collega è andato a cambiare, a mettersi il coso dell'idraulico, l'idraulico nel volante, gli hanno sbagliato l'idraulico, è andato a prendere la macchina all'una e mezza quando stavo uscendo, non girava più lo stesso, bloccato. Qui c'è sbagli olio, quello è molto importante, quello è a densità, capito? Ha una densità molto molto fine, quindi essere attenti, se sbagli olio ti si blocca il libro guida, non passa l'olio, perché non è su olio, c'è cioè un proprio una cosa millimetrica sul libro guida, capisci, un piattello che gira attorno alla scatola di guida, quindi se non passa l'olio lì si buttito. Sì, ma lo sbaglio non è stato del meccanico, il meccanico è andato a comprarlo, gli ha detto l'olio che voleva e gli hanno dato diverso, cioè praticamente aveva due lettere uguali e una che era differente, si sono confusi, gli hanno dato quello lì e adesso ha provato a scaricarlo, ha lasciato la macchina ferma lì, l'hanno scaricato l'olio e hanno messo quello proprio suo originale. Adesso deve sfondare, cerca di muovere lo stesso, macchina in moto, piano piano, e fa passare l'olio suo per pulire. È un bel casino quando sbagli così. E una volta che la fretta del fornitore, un sacco di anni fa, invece di mettere il gasolio, ha messo benzina, figurati. Più di uno succede, quello l'ho visto anch'io. Però dicono che se tu metti un po' di benzina in un pieno di gasolio, pulisce anzi. Sì, la macchina già è partita, ha fatto 50 minuti e si è spenta. Il problema è quello, perché si mischia col gasolio, quindi c'era gasolio, ho giocato un casino. Svoltato tutto il serbatoio, quindi con una pompetta, tutto pulito, tutto bene. Ho messo il gasolio, ho fumo che ha fatto la partenza, comunque è partita, un po' picchiava in testa per 5-10 minuti, poi si è messo a posto, ma non è fatto capitare, troppo capitare, queste cose capitano nei coglioniti come me, però capita. Io l'ho visto più di una volta, addirittura una signora si è fermata dove c'è la pompa del gasolio e della benzina, la macchina. Con il rifornitore appeso, da fare cosa, quanto la metti il pieno, lo metti il pieno, gli schiaccia il coso pulito e va a rifornire le altre macchine. Quando ha fatto il pieno di gasolio, cazzo, si accorge che la macchina era benzina, ma la macchina è benzina, sì. Ma io ho fatto un piano di gasolio, no, non doveva farlo, la macchina è nuova, ma lei si è messa dove c'era il gasolio, scusi. Vabbè, cosa può succedere, proprio un casino, andiamo qua, vabbè, pazienza, io non muovo nessuno, che si mette a posto le macchine, ma adesso il problema è tutto il resto. Ho acceso, ho qua, poi stavo qualche abitato Cosamuro, Scargeghe, tutta quella zona. Perché so che sono riuscito a un po' a fermare un'infezione di buttare, un po', ripeto, che non è molto, già passa. Ok, come va? È un po' il catartino, insomma, che mi si è rotto l'apparato, ma non è niente di che, da ce la giustiamo. Ah, mi hai detto, io ho usato di lui perché l'altro è sordino come ricezione, no, mi lascio questo già, ce l'ho anche levato dal tavolo, lo lascio da una parte, il Midland. Ma usciva, però poi io penso che questi ricevevano Antonio Pomaro bene e che a lui gli aumentava il segnale, dopo di arriva questo è migliore dell'altro, eh. E quindi se te lascio questo, tanto si modula nell'ambito dei 23 canali, poi, capito? Se qualche volta si passa nel 40, non vedo il suo mondo, no. Ma io c'ho anche il Midland che va bene. Il mio Midland riceve benissimo. Stavo modulando, sono andato a prendere i bambini a scuola, sono ritornato e non c'era più ricezione l'apparecchio. Mi ha chicca pepperita, il garage è stato un eco. Vabbè, già lo porto lunedì, lo porto aggiustare. Ho già parlato, diciamo, lo guarda, è una fesseria sicuramente, perché i fatti escono, non riceve e non trasmette, i fatti escono, quando premi la portante si accende la lucetta rossa, esce di fatti, quindi non è roba grossa. E sicuramente sì. Sì, quello è quello sicuramente. Ma qual è quella gara? È stato un ecco, quel parasone grande. Cappa. Sì, che Maria. L'ho buttato via io perché quello lì pare a QRM, è sempre QRM Maria. Non è lui sulla già, qua. Non è sulla scesura, mi domando. Ah, non è quello. È solo quello grande, quello... Tu quasi a... Cosa vuol dire sì? Un metro, ok? Sì, quello lì è, che è il Saturnecco, è quello grande, che c'hai anche tu, no? L'ho buttato via. Buttato via. E chi non era da me? Capo. Ma guarda, l'ho lasciato perché... L'ho buttato via proprio, perché aveva troppo corrente. Era una cosa incredibile, chiaro. Poi prendeva il classico da tutte le parti. Tutti i canali lontano li prendevano lo stesso, e il canale del campo non era anche comparato. E alla fine è giocato. Ah, questo no, scusami. Questo no, non ha né QRM, anzi è sordo. Ha poco QRM, è proprio pochissimo, spazzano le miglia, boh. Sicuramente è stato toccato quello tuo. Avanti, Giampano. Era un parasolo con una maglia da notte. altro non lo so. Io non mi ricordo del mio. Va bene, vai, grazie, che sì. Non ho capito però che apparecchio era quello che avevo dovuto fare. No, era grande, e che aveva due maniglie davanti, che aveva una destra e una sinistra. E aveva un coso, non ho già più tutto visto. Se ho parlato le mani, che era un testo di Bulgaria, e su questa di profondità. Io ce l'ho stesso così con le manine. Di quel modello lì esistono il Petrus, il Galaxy Saturn Echo, il Galaxy Saturn Echo Turbo, e poi il Colt Excalibur, che è praticamente dorato. Che li conosco tutti. E poi ce n'è un tipo della Midland che ha fatto lo stesso uguale a Saturn Echo. Non penso che ce ne siano altri, io i modelli li conosco tutti perché di questa parte sono molto appassionato. Allora, io scusa qualcuno. Allora, grazie, io le ho avuti tutti, quello è il turbo. Io ce le ho avuti tutti il grigio, sino all'Alan, nella 5, se c'è un ecco, le ho avuto anche il coso, si chiama l'altro, quello che deve essere stato il centimetro. Le ho avuti tutti io, quelli grossi. Quello che c'è con 100 watt, 100 watt per intenderci, c'è tutta la tastiera davanti, eccetera. Sì, ho capito. Quello non l'ho mai avuto manco io, ma forse è quello il più costoso che c'è. Splatter, ho ringraziato l'usare. preso il conflatto perché... Ma è un pentito la verità che avevi venduto, che magari nel momento che avevi bisogno di soldi e cose lo vendevi e poi te lo riprendevi. E fate così. Ciao Paolo, abbassa un pochettino che ti senti tutto male. Va bene, va. vuoi che ti dica? Tempi vissuti, tempi passati. Appena dopo. Bisogna uscire anche adesso, bisogna uscire ciabatte, uscire. Ehi, vabbè, quello già usciamo lo stesso, anche perché ci già usciamo. Ciao Fra! Ciao! Aspetta! Guarda! Sono solo che ti sei fuori dalla mia porta! Come ti lo farà che vuole lavorare mai dentro giù giù! Con braccio di ferro! Ci acciappava nell'acqua anche da con Giovanni Alfa Verde, le dico Albatros, naturalmente Fra! Certo che me lo ricordo! E poi tu rimetti i ricordi Fra! Mi pare che all'epoca io volevo, ma quella macchina va via, la festa va via! Ah, ti ho compreso. Ci siamo incontrati anche un paio di... Sì, sì, è vero, sì. Siamo la mia panera, ti ricordi Fra? Sì, che me lo ricordo, certo, certo. E come fa a dimenticare gli amici di prima? Ma la Vespa è venuta là e... Ma era un bel prima, la verità. E va bene, là. È bello ricontrarsi, hai visto là? La mente non si abbandona mai, né Giampaolo lo usa a me. C'è stato un momento di buio, ma lui ha mantenuto sempre il tutto, anche io ho mantenuto sempre il tutto per questione magari di lavoro, comunque sia, non sentivi più a nessuno Fra. Poi mi rimarco sempre tutte le roca, le antenne sopra la capifuria, no, perché era la verità, dopo dice allora è stato un passo a te, per me c'è la passione, c'è anche se non le usi, però la prima cosa che faccio quando andrò a casa subito accendo la radio. E vedo se c'è qualcuno, faccio scaldare magari anche se non posso entrare, però magari ti metto a fare, perché magari il tempo non è quello sufficientemente quello che c'è a disposizione, però vedo, non ho mai abbandonato la verità, non mi sono occupato tra le puscate dalle mode, da internet, cioè no, perché ti serve, perché la verità c'è il mondo dentro casa per fare qualunque cosa, entri e tu vuoi l'informazione, ce l'hai, però non so né a Facebook né a logo, né nessun logo proprio. No, anche che per quello io ho fatto internet, ho fatto su Facebook, no, però ci fa. No, lo prego perché lo hai detto tu, c'è il mondo lì, e poi c'è il colore che puoi, lo so. Senti, tu forse un break non calata, avanti, forse l'immaginazione mia. Avanti Gianni, dai, fai girare il resto della ruota che io... Mi ha sentito Giampaolo un attimino prima, fate entrare. Ok, avanti Gianni. C'è la ruota, c'è Fabrizio, avanti. Io mi sto ascoltando io, mi sono allontanato, quindi ho perso anche il filo del discorso, perché ho fatto cosa al computer. Riprendi Gianni. Si stava parlando appunto di quelli che hanno abbandonato la radio completamente. Stava dicendo appunto Gianluca che lui non ha mai abbandonato nulla, che le antenne sono sempre rimaste sul tetto, anche se c'è stato questo buco, poi c'è stato il boom a Sassari, diciamo che abbiamo ripreso, ci siamo trovati quasi 5 amici vecchi, abbiamo deciso di riaccendere, abbiamo ripristinato tutto. Io per riaccendere ho sentito, ho seguito. Ma dopo un mese di tempo tu, c'eravamo già roba di 6 o 7 anni quando sei entrato tu. Sì, così tanto. Kappa, io l'antenna c'era 9 anni, l'ho messa nuova dopo che avevo mollato tutto, c'erano 9 anni. 9 anni. E quindi è così. Beh, ciao Fabrizio comunque. Lo so. No, ma dopo diciamo che a prescindere da tutto, no? Da quello che uno appunto ha le passioni che le mantiene, le porta avanti, anche ci sono i momenti un po' di lento, oppure magari che dopo vai le acceleri con le cose, ma su tutte le cose così. Ma diciamo che noi siamo brutagliardi a chi, essendo anche un'isola, non ti permette anche di dire sì, vabbè, qui non c'ho nessuno, però magari domenica so che c'è una fiera, una cosa, prendo la macchina e sono una carreggione, in 2 ore, 3 ore di macchina, e mi passa ancora la diversa, andavo a vedere un po' di radio, no? Cosa fai? Tu vuoi una pisciaccia, un esimente, un kiwi. stessa. Scusate, ma io devo ripetere sempre il coso, la frequenza, perché io ci stavo parlando su due viti. Siamo sintonizzati sulla 27 MHz, canale 10, 27075. Avanti di nuovo Gianluca. Ci stavamo traslando su due litri, praticamente noi parlavamo e ci traslavano, capito? Ma perché c'era gli amatoriali? E allora, su due litri. La gente scema proprio, eh. Ma quello lì, Gianni, quello lì minimo era un radioamatore. Io qualche piratone. Va bene, può essere qualche pirato oppure qualche radioamatore che aveva quelle apparecchiature lì. Perché quando mai questo qua mi devo parlare là non se ne fa un concetto di quello che sta facendo. E gente che non sa cosa fare, non sa né altre ne parte quella gente lì, capito? Si diverte a fare queste cazzate, mettere in casino agli altri, quindi noi dobbiamo ripetere sempre la frequenza ogni tanto, di modo che si capisce che noi siamo qua, che ci stanno traslando. Perché uno che ascolta non se ne rende conto. Radio di trasmissione. c'era trasmesso, c'è tutta una cosa. E quindi c'era il rotto di credo, qui c'era, infatti sono arrivato, fu diciamo parcheggiato in parecchie macchine grosse, c'era qualcuno come la mia, grazie a me era una maledizione. Anche belle, poi dentro c'era un certo ambientino, cioè c'era una cosa un po' lì, che io oggi c'era, però sono, e poi c'era non so quel movimento, poi si andava giù che c'era tutta la mostra delle radio, credo che abbia messo a disposizione il notaio Faetta, e poi lì c'era la presentazione, poi stavo filmato una bella cosa, e poi detto, però sono arrivato, il tempo di ciao me ne sono andato, perché c'era il bambino che stava male, quindi dicevo, si sta male, la verità, ha commediato un po', e allora me ne sono andato, quindi non ho visto niente, poi andavo più tardi per curiosità, per sapere com'è andata. Ma si parla di radio ricetrasmettita? No, si parla di radio d'epoca, no, cioè, però c'è anche su quello, perché c'era anche i filmati, credo, di Cossiga, no? Che era radioamatore, e poi c'era qualche radioamatore della sezione di Porto Torres che hanno piazzato un 440 con un dipolo e giusto un po' con un tattino, tipo per fare qualche contesto, poi sono dedicati della frequenza, praticamente. E oggi hanno fatto qualche contest e quindi li avremmo potuto ascoltare. Ho capito. Vabbè, è una cosa carina. Non è roba per pure, eh. Avanti, Giampaolo. Sia il funzionamento di una radio che sia l'estetica, se a me l'estetica mi incanta continuerò sempre a usare quella perché mi piace quella lì, poi il fatto che sia di ricezione sia buonissimo, si sente un bel forte, chiaro eccetera eccetera, quello non c'è da discutere nemmeno, io l'ho sempre avuti, ne ho avuto 4-5 e come pensa anche tu, ne ho avuto 4-5 di gara 61, ecco, quindi già lo conosco abbastanza bene. Sempre meno che tutto sopra. Giovanni, doppio lui. Sì, dimmi. E com'è adesso? Guarda già, male. E sento un rumore sottofondo. Di che cosa? No, sento il rumore, sta fischiando. Lo sento anch'io. Guarda adesso. Sì. Sì. Un attimino, se la ruota chiude, scusate un attimo, passiamo sull'altro canale, vai sul 5. Scusate un attimino, faccio questo segreto un attimo. Sì, va bene, vai. Già fa. Va bene, dai, io devo mollare, devo uscire. Sentiamo, dai, ciao, dopo le soluzioni a Gianni. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, dai. Sentiamo, ciao Gianluca. E per non sbagliarmi saluto a tutti quanti. Ciao, ciao. Thank you. è rivestito da questa plastica, se capita te lo faccio vedere, ce l'ho io un po' di quelle di questi difensori lì. E dopo dovrebbe finire il tempo e dai una bella natura di questo agglomerante, un altro vulcanizzante, e non dovrebbe, diciamo così, neanche prendere ruggine, ma pagando a te a ruggine a questo così, figurati tu, canto di campà, canto di campà, ma figurati. Sono rientrato. Adesso sono liscio con l'altro baracchino, Gianni, controllami questo segnale. Guardo perché sono sdraiato. Esita un attimino. Alla costeria già, perché non so se ha fatto attaccarlo questo qua lo stesso. Santiago sì. Ecco, Santiago sì, con l'antenna, visto là. Non so neanche se ci sono, ma dovrebbe essere 1, 2, 1, 3 sensazionale. Questo è diretta con l'antenna. Ma provate da questo cosa qua, pochini sono. Fanno la gemma di un caso e non lo tocco. A chi è il macco lindo, immacolato e concezione. E anche io ho il Midland, è così, il mio omologato, e basta, e basta. Cava cava, io invece... Ora, sta arrivando così. Ma 8 watt mi stava dicendo Giampaolo. Così io ne ho 10, guarda per quanto arrivo. E tu sei 9 abbondante qua. C'hanno quasi lo stesso segnale dell'altra radio, quindi vuol dire che siamo giusti. Prova adesso così, Giampaolo. Gianni, che mi sembra che è aumentato. K1234567. No, il segnale non è, sinceramente non lo vedo proprio, ma i picchi sono positivi comunque sia. Si è sopra la scala del 9 qua. È rosso, dai. Così 1, 2, 3, guarda vedere così, cambio. Già si vede, ripeto, i picchi sono positivi, sale da 9,95, capito? È più forte, è più forte questa radio di quella che davi sempre. Ma satura, eh? Un pochettino. Anche perché quando lui fa il passaggio è stato effetto, io non è che si comprende bene tu, tipo l'ecco. Già, se è una saturazione eccessiva, lo monti. Ma io se fai i passaggi quello del tempo è meglio. Ecco, guarda, la trappola. Palace, Palace, prova. Quello di bianco, ciao Tore. La più forte è Gianluca. Vai, vai, tranquillo, buona questa greca. Avanti Gianluca. Un attimo, scusate che non ho dato il telefono. Ma c'è rimasto 4-10? Oh, scusate, allora sull'11 siamo, ok. Avanti Tore. Chiuc, Lucy.